Quindi, se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. Quattro mattino di Alessandro Milan. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Ma il cielo è sempre più blu. Ma il cielo è sempre più blu. Adesso questi abbiamo i tweet, abbiamo 25 tweet di buone notizie. La prima legge di stabilità spiegata via Twitter nella storia. Allora, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili. Abbiamo anche preparato delle slide, perché altrimenti non è valida una conferenza stampa senza, di presentazione della legge di stabilità senza le slide. So che non vale tecnicamente. Il vittimismo rassegnato di chi dice sempre dipende da qualcun altro è un ostacolo alla crescita. La dico in questo modo: si scrive legge di stabilità ma si pronuncia legge di fiducia. Ci sono. Ma il cielo è sempre più blu. Il cielo è sempre più blu. Ottimismo, ottimismo, ottimismo. Così dice Matteo Renzi, che udite, udite, sarà ai nostri microfoni alle 8:25 il presidente del Consiglio Matteo Renzi, con me, con Oscar Giannino, in diretta. Ebbene sì, notizia di ieri sera delle 22, abbiamo avuto la notizia ufficiale, avremo Matteo Renzi ospite alle 8:25. Licenziato! Chi? Renzi o io? Renzi! Ah, Giannino già arrabbiato, licenzia il Presidente del Consiglio. Dai che è venerdì, cari amici, è venerdì e infatti c'è Peter Bescapè che è già in vacanza, mentre c'è Carmelo Lauricella in regia, fresco di compleanno, ieri ha portato le brioche anche alla crema, mannaggia a te, bravo, bravo Carmelo. E il nostro Lorenzo Nespoli ovviamente in redazione, in attesa di Matteo Renzi che avremo alle 8:25. E con questa fiducia ovunque, la stabilità della fiducia, bisogna essere ottimisti. L'ottimismo è il sale della vita! Eccoci qua! Noi abbiamo un ottimista, qua, il nostro Vincino. Come stai, caro Vincenzo? Tutto bene? Assolutamente. Io ti ammazzo. Veramente il cielo invece di essere sempre più blu è nero, scuro, acquazzoni, pioggia dappertutto, un disastro in Sicilia, in Campania, questo a vero, Roma, a Roma, al nord, dovunque praticamente. Mannaggia. C'è fiumi che esondano da tutti i lati, affoghiamo, crolla quasi tutto, la metropolitana di Roma un giorno sì, un giorno no, paf! Dobbiamo farci 300 metri della galleria al buio, attenti a non toccare il binario elettrico al centro che moriamo tutti, mamma mia ragazzi, disastro, guarda, totale il ritratto dell'Italia fa, cioè noi avevamo lo slogan più che la legge di stabilità, lo slogan è del segno più del più di più. Cioè noi avevamo capito, avevamo i tweet di Renzi e abbiamo Vincino, capito, madonna mia, ma lo slogan, ma lo slogan mi fa tornare ai tempi antichi là, che è quello, lo slogan a chi stai paragonando Renzi? Renzi ha un capo manipolo col megafono in mano, tenta di, ma è una cosa, guarda, ma tu hai scritto il libro La cavalcata di Matteo Renzi l'anno scorso, ma cosa hai cambiato? Lo amavi? Ma guarda, chiaramente a tutt'oggi è il meno peggio, però come dire, insomma, poi è il meno peggio. Alla ripresa, dai, Vincino, calmati, se no poi ti invito e gli fai una domanda. Calmati. Allora, intanto voglio salutare la nostra. Vladimir è una persona molto sensibile, ha un sentire, come dire, delicato, è un vero guerriero della libertà e della democrazia nel suo paese. Vladimir Luxuria, eccolo qui con l'endorsement di Silvio Berlusconi. No, non ingannare. Era riferito a Putin, vedi? Lui declinava maschile. Questo devo dire che era molto galantuomo. Io pensavo che fosse per te. Mannaggia, pensavo, c'avevo lo scoop. Ho detto Vladimir Luxuria. Okay. No, è vero che c'è un po' un periodo di crisi di identità, questo è vero, che non sa chi sei, tu non sai chi sei oggi, questa è la verità, perché si parla di ottimismo, che secondo un vecchio spotter è il profumo della vita, secondo qualcuno quando ci vede la fregatura è il tanfo della vita, perché io ormai non ci capisco più niente. Esce la manovra finanziaria e sento Brunetta di Forza Italia che dice che quella che ha fatto Renzi è una televendita. Sì, alla Vanna Marchi. Poi sento Renzi che dice, adesso vi faccio vedere le slide. Oddio, no, Renzi, Berlusconi, cioè non ci capisco più niente. Vabbè. Un attimo di confusione. Vladimir Luxuria che conduce, com'è, l'isola di Adamo ed Eva su DJTV. L'isola di Adamo ed Eva. Ma è vero, sono tutti nudi? Tutti nudi. Ecco, Vincino non l'ha invitato, no? Devo dire, sarebbe stata una scena raccapricciante. Quando è che vai in onda? Il mercoledì? Mercoledì alle 21 su DGTV. Vabbè, ma cos'è un reality ovviamente? Cosa devono fare questi nudi? Dato che c'è crisi della coppia, noi abbiamo pensato di contribuire a formare nuove coppie facendo entrare un uomo e una donna completamente nudi su un'isola corta. E vabbè. Interessante questa cosa. Ti piaceva essere invitato, anche te, caro Vincino. Io aspetto l'invito qua. Vediamo. Vabbè, guarda, lo diremo subito a tua moglie, caro Vincino, di questo tuo desiderio. Bene, allora dai. Che è di là che dorme. Vabbè. Dopo la chiamiamo. Allora, mandiamo la registrazione. La moglie di Vincino sappia che Vincino desidererebbe moltissimo essere invitato all'isola di Adamo ed Eva, dove ci si accoppia così con degli sconosciuti. Vabbè, dai, registriamo questo. Dai, apriamo il Parlamento, che è venerdì. Adesso vado a prendere un caffè. Ho capito. Io vorrei capire adesso, al di là delle critiche all'ottimismo, eccetera, c'è qualcosa a Vincino, Vladimir Luxuria, che non va convinto? Vincino, cosa veramente non ti ha convinto del Renzi che ieri ha illustrato la legge? Sono tutte, come dire, piccole cosettine in un certo senso. Cioè, no? Per esempio, l'abolizione della tassa sulla casa. Vabbè, quella l'aveva già fatta Berlusconi, dai, come dire, siamo da 10 anni, leva me, non è che dice, è una grande riforma, una grande cosa, una stronzata. Obiettivamente no. Poi che cos'è? Il canone. Il canone, finalmente ha trovato il modo di fare pagare il canone agli italiani. Perché tu lo paghi il canone. Ma, Ufficialmente sì. Diciamo cosa vuol dire ufficialmente, no, diciamo, ufficialmente sì? Sì, non lo so, ufficialmente diciamo ufficialmente sì, cioè, ecco così. Ecco, ufficialmente come dichiarazione Radio 24 lo pago. Il politico dichiara una cosa, io dichiaro ufficialmente lo paga. Tu Vladimir lo paga, aspetta. Aspetta, Vladimir, lo paghi il canone della Rai? Sì, lo pago. Ufficialmente, ma anche veramente. Lo pago. Effettivamente penso che questa è una notizia che non piace soprattutto a chi finora non l'ha pagato. E sicuramente anche a chi magari il televisore in casa non ce l'ha e dovrà comunque dimostrare che non ce l'ha. Però il problema, secondo me, però, che nasce adesso, non so se hanno risolto i problemi con i fornitori di energia elettrica, perché sì, in realtà l'hanno risolti, perché non credo possono staccare la luce se tu non paghi il canone, anche se poi sarà difficile non pagarlo, perché sarà questa voce dentro scritta piccolina sulla bolletta, figura di vecchietti, eccetera. E poi, secondo questa legge, dovrebbe essere il fornitore di energia elettrica a fare da delatore, a dover avvisare l'agenzia delle entrate. Hanno raccontato tutti, ce lo dirà anche Oscar Giannino, l'ha già detto, che mettere una tassa all'interno di un'utenza è un qualcosa di incostituzionale, cioè in teoria. A meno che uno non pensa che dovrebbe essere considerata a televisione anche la lavatrice, dove a volte effettivamente ci sono dei programmi più interessanti effettivamente. Si potrebbe fare così, caro Vincino, però potresti dire così: sono vecchio, non leggo bene la bolletta e non la paghi. No, la bolletta la leggo benissimo, assolutamente. No, è una cosa, siccome il 90% giustamente gli italiani non paga il canone. Giustamente sì, ma perché la RAI, se non andasse a trovare soldi di pubblicità, tranquillo, privatizziamola, mandiamola sul mercato, basta, leviamo ai partiti tutto, RAI compreso. Basta, non se ne può più. E allora mettilo che non lo paghi il canone della RAI, dillo, non succede niente se lo dici. Qua è ufficialmente, ho già detto una cosa, non posso assolutamente tornare indietro. Ufficialmente paga il canone della RAI. Se però ci fosse, dimmi Vladimir. No, io inserirei invece un euro da destinare a R24, in particolare al Parlamento, così la smettete di vedervi offerto il caffè dalla Minetti, dai. Va bene, no, adesso è la Boschi. È la Boschi che glielo offre, no? Prima era la Minetti, adesso è la Boschi. Vedi che sono confusa io, Renzi, Berlusconi, la Boschi, confondi tutto, la Minetti, adesso è la Boschi. Se vuoi ti mettiamo anche la Minetti, magari lo recuperiamo. Prima ce l'offriva la Minetti, adesso è cambiato, c'è il renzismo e ce l'offre la Boschi, va bene. Comunque struttrice di senatori. Però no, mi piace tantissimo l'idea che hai lanciato, eh? Un euro di tasse a tutti gli italiani, quindi otterremo 60 milioni di euro. Oh, io e Lorenzo Nespoli e Carmelo La Rucella ce ne andiamo sull'isola di Adamo ed Eva. E sverniamo. A tirar fuori tutta la vostra gioia di vivere. No. L'importante è che ci fai trovare, insomma, cara Vladimir, insomma. No, c'è. Noi andiamo sull'isola, però insomma, vorremmo anche della compagnia. Non è che siamo sull'isola da soli, io, Lorenzo e Carmelo, perché capisci che. Vabbè, no. Una Eva si trova, non si preoccupare. Una, anche tre, magari. Anche. No, sai com'è. Va bene. Dorme un parassita dirigente Rai dentro ognuno di Radio 24. No. Questo è il vostro desiderio, avere il cane pure voi. Io lascio subito una radio liberale. Ma no, non è il stupenda, non è che voglio il canone, vorremmo 60 canone, milioni di euro noi. Ho capito. Da un euro cada pure. E ti fanno schifo. Ufficialmente non te lo do. Beh, scusa, ti farebbe schifo avere 60 milioni di euro. Certo, ci sarebbe. Per fare un giornale di satira, sì, ma non quello. Ci sarebbe l'evasione fiscale, quindi noi, Vladimir Luxure, ha proposto un euro da pagare tutti. Qualcuno non lo pagherà, lo andremo a stanare, lo cercheremo. Però mi sembra una proposta sensata. Io la metterei. La chiederemo a Matteo Renzi alle 8:25 quando sarà nostro ospite. In tutto questo, però, cara Vladimir Luxuria, slittano le unioni civili. Ma si faranno mai queste unioni civili? Cioè, perché qui ogni tre mesi c'è una novità. Si faranno mai, cara Vladimir? Si faranno mai? È più importante l'alleanza con Alfano, poi tra l'altro perché Alfano ce l'ha tanto contro le adozioni, visto che lui è stato abbandonato da Silvio e adottato da Renzi? Cioè, vabbè, insomma dai, un cattolico. Vabbè, comunque le hanno incardinate, si chiama così, ce l'hanno incardinate, che sembra quasi ce l'hanno messo in quel po', ce l'hanno incardinate al Senato, adesso dovrebbero discuterle, però visto che adesso... verosimilmente se ne parlerà a gennaio, sì, secondo me, se ne parlerà a gennaio. Io voglio essere, a proposito di ottimismo, cautamente ottimista. Ottimista perché è un impegno che è stato preso, cautamente perché altre volte è stato promesso e non è stato mantenuto. Ma tu vorresti anche le adozioni per gli omosessuali? Sai che già c'è il dibattito sulla stepchild adoption, cioè se uno ha un figlio poi si mette da una coppia eterosessuale, poi si scopre omosessuale, si mette con un compagno o una compagna, questo compagno o compagna può adottare il figlio. No? È un provvedimento umano perché avere due persone che si prendono cura, che hanno responsabilità di un minore, è sempre meglio che averne una sola, che se non c'è più ci ritroviamo con un orfano di stato. Sì, ma tu apriresti proprio anche alle adozioni tra omosessuali, cioè proprio due uomini, due donne che adottano un figlio. Magari qualunque persona abbia visto un bambino in un orfanatrofio, abbia visto un bambino orfano di tutto e tutti, come ho visto io in Mozambico quando sono andata in missione con l'UNICEF, sa bene che per un bambino la cosa importante è avere un libro per studiare, una medicina se sta male, una ninna nanna per addormentarsi. Quindi chi se ne frega se sono due secondo papà? Me sì, nel senso che se una persona è capace di dare affetto, di dare cura, ben venga. Va bene, su questo non so se Vincino hai un'idea tua. Come dire, concordo più o meno. Vabbè, vi farò sentire così vi rallegro la giornata. Giovanardi dopo il traffico. Va bene, Vladimir, se mettiamo Giovanardi? Questo regalo, grazie. Possiamo farlo, sì, lo facciamo. Dopo il traffico, è con Vladimir Luxuria e Vincino, tra poco. Il caffè volentieri a tutti quanti. Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta questo marino, è così maligno e cattivo, l'ultimo regalo per massacrare i romani, chiudere i fori imperiali significa distruggere altri quartieri su cui si concentra il traffico. Vattene marino, mascalzone. Ci troppo fort Milan, ci proprio un magna moschi. Vai avanti così, sei un grande. Italiani di mare, dei monti, del piano, amministrare Roma non è impossibile, è inutile. Ciao Milan. Alessandro, buongiorno. Ma chi se ne frega di Ezio Capuano? Ma chi cazzo se ne frega di Ezio Capuano? Il più figo di tutti è Vincino, mi ricorda Nicolò Zito di Televigata, l'amico del commissario Montalbano. Oh, capito caro Vincino, il più figo di tutti. Certo, tu lo vedevi. Sì, ma lo vedevi in TV Montalbano, lo vedi? No. No. Cos'è che vedi in TV? Vedo quelli terribili là, cioè le serie quelle più crude. Quindi il canone della Rai lo paghi. Vedendo la TV lo paghi. Già spiegato. Hai già detto ufficialmente. Sì. Siamo con Vincino e Vladimir Luxuria. Vi vorrei, ma Vladimir continui su Radio Capital il Geco e la Farfalla nel frattempo? Sì, continuo. Insomma, ma come fai? Quanto lavori? 15-20 ore al giorno? Ma no, ma cosa vuoi che sia? L'isola della Medeva è già registrata. Ecco. Cioè, che la fa fare poi... un'ora, dalle 9 alle 10, dai. Quindi puoi svelare chi ha vinto l'isola della Medeva? No, ma non è che vince, o si forma una coppia o non si forma, a volte... Vabbè, puoi forma, svelarci il finale? No, ci sono casi in cui si no, ti posso dire che una volta è successo che c'era un Adamo e due Eva, e l'altra Eva ha preferito l'altra Eva, ecco. Robe pesanti. Come a Canale 5 quella trasmissione là del pomeriggio. Robe pesanti. No, ma quale? No, non ti seguo su questo. Sì, allora, sì, a Canale 5 c'è una trasmissione dove si formavano le coppie, le cose, poi si venivano uomini e donne, sì. uomini e donne. Uomini e donne. E qui è donne e donne. Uomini e donne dintorni. Abbiamo allargato un po'. Io sono il dintorni. Abbiamo fatto uomini e uomini, donne e donne, insomma così, così, come viene, viene. Allora, vorrei capire però che ne pensate di Roma e di Marino. Avete sentito questa dei Fori Imperiali, no? Voi che vivete a Roma. Vladimir, sì, è un disastro. Ecco, per Vincino totale, Giorgio. Totale. Io poi abito vicino, un disastro. Sì, totale, ma ho capito, guarda. Però non è che non si può tutto vivere in maniera così relativa, no? Anche ieri un ospite ha detto: "Ma io vivo la nostra amica Carla Rocchi, che è presidente dell'EMPA, dice: "Ma io vivo sui Fori Imperiali, è un disastro". E ho capito, ma magari uno deve fare il provvedimento per tutti. Io però non riesco a capirlo perché non ho aspetta un attimo, Vladimir Luzzola, tu che ne pensi? Io non ho la percezione di questa tutte cosa. Tutte le volte che si parla di pedonalizzare una zona ci sono sempre persone che si lamentano, questa è la verità, o gli abitanti oppure i commercianti che dicono: "Adesso noi venderemo di meno perché non arriva la gente direttamente con la macchina vicino al negozio". Anche per esempio ricordo il lungomare Caracciolo a Napoli, quando è stato pedonalizzato, è stato tutto, poi dopo la gente si abitua. Non lo so, se la pedonalizzazione dei Fori Imperiali è qualcosa che permetterà di passeggiare di più, di godersi di più questa zona a piedi, di incrementare il turismo, magari con orari sempre, quando troveremo sempre insomma i Fori Imperiali aperti, anche il Colosseo aperto senza scioperi eccetera, è una cosa positiva. Se no, ma secondo me Marino non è stato mandato via per... No, questo è il colpo di coda, il colpo di coda che prepara Marino, cioè pedonalizzare tutto anche a taxi e autobus. Tu caro Vincino, perché è un disastro? Perché vivi lì e hai dei disagi, e chi se ne frega, mi verrebbe dire. No, Vincino, a metà, cioè metà del Colosseo dove ancora gli passa l'autostrada accanto. Allora, secondo me il Colosseo è una cosa meravigliosa. Il Colosseo deve essere per 10 km intorno pedonalizzato totale, che uno lo guarda come sta tranquillo intorno. Che emerge lì, emerge. E invece no. Allora, una parte l'hanno solo levato il traffico, quello privato, mentre gli autobus, i pullman, che sono i peggiori di tutti, continuano a passarci. E l'altra parte l'hanno lasciato totalmente con questa autostrada che gli passa intorno al Colosseo, no? Per cui hanno fatto una cosa brutta e a metà. Questa cosa, poi se tutto chiudi tutta una parte, devi poi rafforzare aggiustare il traffico da tutte le altre parti, in un certo senso. Va bene, si è capito tutto. Senti, stamattina c'è bloccata al raccordo anulare, zona Tuscolana, zona, cioè è un disastro. Un disastro. Non funziona. Metti 10 tweet. Se accelerassero i lavori della metro C, che dovrebbe avere proprio la fermata ai Fori Imperiali, sarebbe già una gran cosa. Purtroppo questi lavori vanno molto a rilento. Va bene, io non lo so, sulla metro C mi fermo. Però mi arriva un messaggio, cara Vladimir, a dire: cambiano ogni volta le coppie. No, ma è molto buono questa cosa. È vero che cambiano ogni volta le coppie all'isola di Adamo ed Eva? Sì, perché ogni puntata c'è un Adamo e due Eva, due Eva e un Adamo. Sì. E quindi uno deve fare una scelta. E poi la puntata successiva ce ne sono altri, perché si devono formare le coppie, mica possono essere sempre le stesse. Sì. Poi potresti anche rispondere: guardatelo, cioè invece di farmi tutte queste domande, insomma, magari mercoledì prossimo guardatelo, magari ti fai un'idea di che programma sia. Va bene, prometto che settimana prossima darò uno sguardo per capire se vince. Promesso, capire se Vincino potrebbe andare bene. Insomma, lo fai solo ovviamente per motivi di professionalità. Per vedere. Sì. Non sia mai, assolutamente. Assolutamente. Vabbè, ti faccio sentire Giovanardi, avevano detto, no? Che così ti rallegro la giornata. Giovanardi! Che la maggioranza degli omosessuali e dei transessuali, le persone serie, dico, che non sono quelli del gay pride, non sono quelli che si mettono le penne e le piume e girano per dileggiare il Papa, sono persone normali che vivono la loro vita. Sono contrario all'utero in affitto. Vedi, Vladimir, sono persone normali, sono la maggior parte, dice Giovanardi. Non è che... Come quelli che dicono... senza piume, distruzzo. Io ho tanti amici omosessuali, no? Io ho tanti amici omosessuali. Sì. Che io dico sempre: sì, anche io ho qualche conoscenza eterosessuale. Fammi ricordare mia madre, mio padre... Questo caso non ha detto niente di male, sono persone normali, la maggior parte non sono quelli con le piume, distruzzo, con le penne. Lui vede questi gay andare in giro con le piume di spugna? No, al Gay Pride immagino, no? Gay Pride è una manifestazione gioiosa e allegra, molto più allegra e molto più avvincente e meno noiosa di un convegno de com'è che si chiama, API, Alleanza Popolare. Se non lo so, NCD credo, NCD. Sicuro, su questo non c'è dubbio, ma non è difficilissimo essere più allegri di un convegno di quel genere. Vi devo salutare e vi ringrazio, Vladimir Luxura, alle 9 allora col Geco la Farfalla su Radio Capital e Vincino, eh. Noi alle 8:25 abbiamo Renzi, state con noi. Il segnale orario vi è offerto da Logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino, semplice o automatico, al più complesso centro logistico. Smau ti aspetta a Milano, 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta 1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Cari amici, è venerdì, dai che lo schema Allegri deve funzionare a palla, dai! In questo venerdì e chiudiamo col botto, come si suol dire. Avremo ospite Matteo Renzi, presidente del Consiglio, alle 8:25, dalle 8:25 alle 8:55, qui con Oscar Giannino, a parlare ovviamente e soprattutto la legge di stabilità approvata ieri, ma non solo, insomma. Tutte le domande che avremo per il presidente del Consiglio alle 8:25, Matteo Renzi ai microfoni di Radio 24. Allora, intanto che dobbiamo dire di più? Beh, niente, la legge di stabilità è la notizia del giorno su tutti i giornali, ma c'è anche altro, allora andiamo a sfogliarli questi quotidiani. È venerdì 16 ottobre, i titoli tutti declinati alla legge di stabilità, al Sole 24 Ore, manovra espansiva, meno tasse, tagli timidi, questo è il titolo di prima pagina. Per il Corriere della Sera, Renzi, così abbasseremo le tasse. Repubblica, via la manovra da 27 miliardi, meno tasse, canone TV in bolletta. Per il Messaggero, giù le tasse su casa e imprese. Il Fatto Quotidiano, via le tasse su ville e castelli, 8 euro al mese agli statali. Questa è una delle critiche fatte alla manovra, cioè pochi soldi per gli statali e invece via la tassa sulla casa. La Stampa, ecco la manovra taglia tasse, è la dichiarazione di Renzi. Per Avvenire, manovra ambiziosa. Oh, poi è sempre interessante guardare a sinistra, i due giornali che sono ormai hanno preso due pieghe davvero diverse, il Manifesto molto critico nei confronti di Renzi e del governo, questa volta mette la foto di Renzi e del presidente di Confindustria Squinzi, coppia stabile, questo è il titolo di prima pagina, mentre l'altro giornale di sinistra, l'Unità, è molto renziano nel nuovo corso, fuori dal tunnel, questo è il titolo dell'Unità. Libero, tasse e pensioni, cosa cambia? Mentre il giornale, tasse e tagli, cosa cambia? Praticamente lo stesso titolo per Libero e Giornale. Voglio partire da altre notizie, poi sulla legge di stabilità ovviamente ci concentreremo. È una notizia incredibile. Voi immaginate di essere, forse lo siete veramente, siete all'ascolto, una delle persone di Roma che ieri è stata nuovamente per l'ennesima volta bloccata per un guasto a un mezzo dell'ATAC, in questo caso la metro. Ecco, immaginate di essere uno di questi, oppure lo siete veramente, e leggete ciò che tutti i giornali riportano, la relazione del commissario anticorruzione Cantone. ATAC, scandalo infinito. 5 anni di appalti senza fare le gare. Carlo Bonini su Repubblica, ma ne scrive anche Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera, è la relazione del commissario anticorruzione Raffaele Cantone, che ha presentato queste 4 pagine nelle quali è scritto in pratica che l'affidamento senza gara è avvenuto nel 90% dei casi degli appalti degli ultimi 5 anni, per un totale di 2 miliardi e 200 milioni di appalti tra il 2011 e il 2015, forniture, lavori e servizi. E Cantone invita l'azienda a giustificare entro i prossimi 30 giorni le ragioni di questa macroscopica anomalia, cioè un qualcosa di eccezionale che era diventato la regola. Il 90% degli appalti assegnati senza una gara ufficiale, assegnati in modo privato, a trattativa privata, per una cifra che è non solo difficile da immaginare, ma è fuori da ogni prassi di governance di aziende pubbliche, oltre che di buonsenso, se si considera che il bilancio annuale dell'intero comune di Roma è di 5 miliardi di euro. Quindi 5 miliardi di euro è il bilancio del comune di Roma. In 5 anni 2 miliardi 200 milioni sono andati in appalti fatti senza gare. Indaga Cantone. Anche il Corriere, la relazione di Cantone, 5 anni di appalti irregolari. Questi trasporti a Roma. E uno dice, vabbè, c'è questa gravissima anomalia, ma almeno andrà tutto a posto. Funzioneranno come dei meccanismi oliati, precisi, perfetti. So che vi sto facendo arrabbiare, amici di Roma. Il Messaggero racconta un'altra giornata di passione sulla metro di Roma. Motrice tampona. Alla guida c'era un meccanico, questa è la denuncia. La giornata raccontata da Raffaella Troili, a pagina 12 del Messaggero, mo arriva un bus per sostituire una navetta rotta che sostituiva la metro rotta. È successo anche questo, lo sfogo di una persona, perché oltre a essersi rotta la metro, sono arrivati gli autobus, alcuni dei quali rotti, per cui è dovuto arrivare la navetta che ha sostituito l'autobus rotto che sostituiva la metro rotta. Ragazzi, vite, appuntamenti, impegni di lavoro, suoni di campanelle disattese. Ieri alle 8 a Roma c'era il mondo sotto la metropolitana, studenti e lavoratori, quelli che hanno un orario da rispettare, i minuti contati, già normalmente rassegnati a viaggiare come sardine, già quotidianamente vittime dei disservizi del trasporto pubblico romano, stavolta vittime di un treno che entra alla stazione Anagnina, abbatte il tronchino, probabilmente per un guasto ai freni, e allora patatrac. L'assessore Esposito che dice: avevo già detto che ci voleva fortuna e una preghiera ogni mattina. Oggi sinceramente mi viene da piangere. Viene da piangere all'assessore ai trasporti, pensate, ai cittadini di Roma. Tra l'altro l'accusa di Renzo Coppini, che è il segretario generale del sindacale SUL, comparto trasporti, che dice non c'era neanche il macchinista alla guida, ma un capo tecnico. Questa cosa peraltro non è né confermata né smentita dall'azienda. Comunque, incredibile, incredibile. Tutto questo, ricordate, il 90% degli appalti fatti senza assegnazione regolare, gare regolari. Oh, comunque, cari ascoltatori, c'è anche oggi la buona dose di articoli dedicati alla vicenda dei vaccini, perché è una vicenda che sta emergendo sempre più prepotentemente. Domani ci sarà un convegno importante a Milano, ci saranno nuove linee guida del Ministero, perché il Ministero della Salute vuole ora mettere un punto al fatto che ci sono sempre più genitori che non fanno fare le vaccinazioni ai propri bambini, ovviamente le vaccinazioni e quelle non obbligatorie. La battaglia per i vaccini, pagina 25 del Corriere della Sera, meno protezioni, rischio epidemia, e allora che cosa pensa di fare il Ministero? Pensa di reintrodurre l'obbligo di presentazione di certificazione di vaccini fatti per iscrivere i bimbi a scuola. Come scrive Margherita De Bacca sul Corriere della Sera, torniamo a 16 anni fa. Nel 1999 l'obbligo di presentare il certificato di vaccinazione o l'autocertificazione da parte dei genitori per iscrivere l'alunno a scuola venne abolito. Ma i ministeri di pubblica istruzione e sanità ritennero allora che il diritto allo studio fosse prevalente. Ora però la marcia indietro. Le regioni stanno per esaminare il piano nazionale vaccini del prossimo triennio e sembrano orientate su dichiarazione del presidente della regione Piemonte, che è il presidente di tutte le regioni, Chiamparino, a reintrodurre l'obbligo di presentare la certificazione. D'altronde non è più prioritaria il diritto allo studio, ma la salute pubblica e la tutela della salute pubblica. Non c'è da scherzare. D'altronde le denunce sono queste dei pediatri dell'Istituto Superiore di Sanità: si vaccina sempre meno, ed eccolo qui anche sul Secolo XIX, obbligo di vaccinazione per l'asilo e le elementari. Questo è quello che si vuole fare, e verso questa strada si vuole andare. Con la scuola c'entra poco questa notizia, o meglio c'entra con la scuola, nel senso che c'entra con la laurea, ma notizia finita sui giornali, notizia di ieri: il CEPU è in pratica fallito. Beh, è stata una storia, una parte della storia dell'Italia, il CEPU, ve lo ricordate, la scuola che, come racconta il Fatto Quotidiano, prometteva laurea a tutti, debiti e conti in rosso, CEPU si arrende, è fallimento. Carlo Di Foggia e Valeria Pacelli raccontano la storia di questo fallimento, ma soprattutto è interessante l'articolo di Antonello Caporale a pagina 7 del Fatto Quotidiano. Addio all'università che laureava tutti col sorriso dei VIP, i testimonial famosi passati sono stati Di Pietro, Del Piero, Carolina Kostner, Valentino Rossi, ma non solo, anche altri, questi più famosi. Il CEPU, raccontano Antonello Caporale, allenava l'ottimismo dal Piemonte alla Sicilia. Se c'erano i quattrini, perché i corsi costicchiavano, nulla era precluso. La prima cosa che mi è venuta in mente di fare al momento di iscrivermi all'università è stata di andare al CEPU, affermò la pattinatrice Carolina Kostner. E malgrado gli impegni sportivi, la vita da giramondo, le ore di allenamento, Carolina, grazie a CEPU, riuscì a superare 5 esami in un anno, tutti meravigliosamente. Non ce la fece invece Alex Del Piero, che scelse CEPU, ma mai un esame dato, ma un sorriso di incoraggiamento. 2 anni durò il suo contratto, poi il manager spiegò: abbiamo scelto un'altra linea, e si buttò sui libri di cucina. Il CEPU è stata la navicella spaziale, la piattaforma di lancio di chi voleva toccare il cielo con un dito, subito e senza sforzo. D'altronde il suo patron Polidori comprese bene, meglio degli altri, la dimensione della ruggine che gli italiani avevano con gli studi, l'impegno quotidiano, la fatica di leggere, rileggere, e allora scelse di presentarsi con una pubblicità quotidiana assillante, convincente. Lui ingaggiava Mister Sorrisi, non professori Carogna, e nel giro di qualche anno l'universo Polidori diventò scienza dell'apprendimento a bassa intensità di sudore. Ma il CEPU ora di fatto non c'è più. Eccoci qua. Questo di Riccardo Arena sulla Stampa, voi che siete alla guida, è l'articolo che ci fa tenere le mani sul volante. L'articolo che mi fa pensare della giornata. Se siete in treno a Roma o su una metro, auguri intanto, o se state per prenderla, auguri, perché ci vuole una preghierina, come dice l'assessore Esposito, e mani, non lo so, mani sui sedili. Riccardo Arena: il giudice sospeso non paga 18.000 euro al supermarket. È la storia già di per sé complicata del giudice Silvana Saguto, che era colei che doveva gestire i beni della mafia, sequestrate la mafia, e finita in uno scandalo, tutto da accertare per la verità, di inchieste proprio ai suoi danni. Il giudice antimafia faceva la spesa a credito nel supermercato tolto ai boss. Il conto Silvana Saguto non lo pagava volta per volta, ma preferiva rinviare alla fine del mese. E alla lunga il debito si è accumulato. Nell'arco di 3 anni è lievitato a 18.451 euro. Il giudice antimafia, tra l'altro, era il presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo, e la Saguto, travolta da un'inchiesta della Procura di Caltanissetta, fino all'inizio del mese scorso coordinava il pool che gestisce i beni sequestrati e confiscati alla mafia. Eppure aveva questo conto arrivato a 18.451 euro non pagati da un supermercato che peraltro aveva requisito alla mafia. E vabbè. Cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Sì. Capitano soltanto capitano. Perché questo paese capitano. È pieno di gente che così. Quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. oggi è venerdì. È venerdì! È venerdì, cara ascoltatrice, vedi che comincia a diffondersi questo, questo urlo. Dai, ditelo, è venerdì, ottimismo. Poi il lunedì diremo è lunedì, è lunedì. Allora, siete pronti? Ricordate, se vi siete messi all'ascolto solo ora, che alle 8.25 avremo ospite con Oscar Giannino Matteo Renzi, Presidente del Consiglio. Ovviamente, piatto forte, la legge di stabilità approvata, approvata ieri. È una legge di stabilità tra i 27 e i 30 miliardi, dipende se l'Europa ci sbloccherà una questione sull'emergenza migranti, per cui si potrà, secondo quello che ha detto Renzi, anticipare uno sconto dell'IRES e un abbassamento dell'IRES alle imprese. Che cosa è stato confermato a grandi linee, poi tutti i dettagli ci sono sul Sole 24 Ore e si scopriranno ancora meglio quando ci saranno tutti i testi nei prossimi giorni. Comunque, la tassa sulla prima casa che scompare, come aveva detto Renzi, arriva il canone in bolletta, il canone della RAI confermato in bolletta e scende a 100 euro. Poi ci sarà, non ci sarà la flessibilità sulle pensioni, questo ha vinto un po' la linea del rigore dei conti di Padoan. Ci sarà dal 2017 il taglio dell'IRES al 24%, appunto, però in questo caso si può anticipare all'anno prossimo se l'Unione Europea ci riconosce uno sblocco di fondi legato all'emergenza migranti. Ci sono gli ammortamenti del 140% sui nuovi macchinari, dunque i maxi ammortamenti, tante cose ovviamente. Il dubbio è sempre quello delle coperture. Vi invito a leggere Dino Pesole, pagina 1 del Sole 24 Ore. Il mix di coperture tra tagli, una tantum flessibilità europea. Scrive Peso, le coperture strutturali per 5,8 miliardi garantite dalla spending review. Dunque 5,8 miliardi dovevano essere 10, questo l'annuncio, e invece 5,8. Poi coperture di circa 1 miliardo dal prelievo sui giochi, a cui si aggiungono ulteriori 3,1 miliardi di risparmi tra limature dei vari capitoli di bilancio qualificati dal governo come ulteriori efficientamenti. E poi coperture via flessibilità europea, dunque con aumento del deficit, per 14,6 miliardi. Dunque metà della manovra di fatto è coperta col deficit. E ancora continua Dino Pesole, coperture una tantum per 2 miliardi grazie agli incassi attesi dall'operazione rientro dei capitali attraverso la voluntary disclosure. Coperture multiple e in progress dunque per una manovra che arriva in Parlamento con un volume di risorse di circa 26,5 miliardi, ma potrebbe crescere a 29,6 miliardi se Bruxelles autorizzasse la cosiddetta clausola migranti. Risorse dunque che sarebbero indirizzate a anticipare al 2016 il taglio dell'IRES dal 27,5 al 24%, oltre che a ulteriori interventi sul versante dell'edilizia scolastica, e qui partirà la trattativa con Bruxelles. Questi dati, i macrodati, poi bisognerà vedere nelle pieghe del provvedimento. Certo, i titoli sui giornali sono via l'addizionale sulle seconde case, resta l'IMU però su cantine e garage. Questo è interessante, lo scrive Repubblica, Valentina Conte, cioè è vero che vengono tolte le tasse sulla prima casa, ma l'IMU su cantine e garage rimane. Sulle seconde pertinenze, cantine, garage, posti auto, sottotetti legati alla prima casa. Se il governo abolisce la TASI, che fine fa quest'IMU qui? Si paga e come? I relativi proprietari, finalmente esentati dal balzello sulla prima casa, dovranno comunque versare i bollettini per le seconde pertinenze tra i 10 e i 100 euro. Una bella beffa, scrive Repubblica. Sono 6 milioni in totale. Dunque, abolita la tassa sulla prima casa, ma non le seconde pertinenze, garage, posti auto. Lì l'IMU si continua a pagare. Come racconta anche la stampa, manovra in deficit per metà, ora parte la trattativa con l'Unione Europea. Renzi però ha mostrato grande ottimismo, le slide, i tweet, i 25 segni dell'Italia in più, la CGIL dice invece c'è l'Italia meno, ci sono meno lotta all'evasione fiscale col contante, la conferma di questa del contante che sale a 3.000 euro, il limite dell'uso del contante, c'è meno soldi per gli statali, si dice solo 8 euro di aumenti lordi agli statali perché è stato dato un fondo molto molto poco corposo. Renzi, ripeto, è ottimista. Pagina 6 di Repubblica, Alberto D'Argenio lo racconta. Bruxelles, sono sicuro non ci bocceranno. Questo è un retroscena, ma ovviamente lo chiederemo al diretto interessato, lo stesso Matteo Renzi, se c'è questo ottimismo, alle 8:25 ai nostri microfoni. Proprio nel giorno in cui si approvava la legge di stabilità, invece, fuori da Palazzo Chigi a Roma, c'era una grande contestazione degli agenti di polizia, soprattutto gli agenti che contestavano i tagli e anche gli accorpamenti, e il leader della Lega Matteo Salvini si è messo un po' anche alla testa di questa protesta, si è presentato ieri anche da Paolo Del Debbio in TV con una divisa della polizia, dicendo peraltro io ripristinerei la leva obbligatoria, poliziotti in piazza contro il governo, Salvini si arruola, questo è il titolo del giornale pagina 8, tanto che Massimo Gravellini sulla Stampa in prima pagina dedica il suo buongiorno proprio a Matteo Salvini, il titolo è questo: Leva Nord. Durante una manifestazione di protesta delle forze dell'ordine a cui ha partecipato indossando una divisa taroccata della polizia, e rabbrividisco l'idea di come si presenterebbe a una manifestazione di protesta delle conigliette di Playboy, il felpato Salvini ha proposto di reintrodurre il servizio militare obbligatorio per insegnare a qualche ragazzo come si rispetta il prossimo. Lo diceva già mia nonna, scrive Gramellini, e nel ricordarlo non intendo mancare di rispetto né a lei né a Salvini, né tantomeno al prossimo, ma solo rimarcare la persistenza nel tempo di certe profonde intuizioni. Non ci sono più le mezze stagioni, si stava meglio quando si stava peggio, e appunto ai giovani d'oggi servirebbe una bella guerra. Sulla scia di mia nonna, anche il felpato è convinto che la rigida disciplina dell'esercito e una raffica di piegamenti in cortile al primo accenno di ribellione forgerebbero una generazione educata, rispettosa, senza grilli per la testa. La tesi è interessante, andrebbe sperimentata con qualcuno che corrisponda all'identikit, qualcuno che disprezzi chi non la pensa come lui, reagisca alla complessità della vita sparando il primo slogan scontato che gli passa per la testa, irrida i deboli, sfrutti la rabbia dei frustrati vellicando il loro punto debole con sparate demagogiche, qualcuno insomma che dimostri ogni giorno di non avere alcun rispetto per il prossimo. Più ci penso e più mi sembra un'ottima idea quella di reintrodurre il servizio militare obbligatorio per Salvini. Vabbè, questo veramente l'ironia, adesso mi attaccheranno tutti quelli della Lega, però è un bel pezzo scritto da Massimo Gramellini nel suo buongiorno. Io per esempio subito manderei alla leva obbligatoria Mauro Meazza, subito. Mauro, buongiorno. Buongiorno, guarda caro Alessandro, che ti voglio segnalare che io sono militassolto. Militassolto. Purtroppo ho fatto in tempo a farlo il servizio militare, quello lì. Bene. Di cui auspichi, non ho capito se auspichi o non auspichi. No, Salvini tu non la auspichi, tu auspichi. Sai che io sono agnostico. Ostico e anche agnostico, c'è un allenatore che ti è caro. Volevo dirti oggi numero da collezione del Sole 24 Ore. Hai già segnalato correttamente alcuni degli approfondimenti sulla la legge di stabilità. Ti voglio precisare soltanto, nelle 16 pagine in cui parliamo della legge di stabilità, poi troverai anche gli altri dettagli, ad esempio cosa si decide per la sanità o l'IVA sui giornali digitali che scende al 4%. Non è un dettaglio irrilevante per tu che fai questo lavoro, anche se tu usi ancora la carta. Carta costa, invece molti usano invece i giornali digitali, anche tra i nostri lettori del Sole 24 Ore. Ti voglio anche dire poi che parliamo di un collegato alla legge di stabilità, perché già ieri ti ammonivo, guarda che la legge di stabilità è un composito, è un composito di più provvedimenti, disegno di legge di stabilità, ma anche un collegato. Ad esempio c'è un collegato sul lavoro autonomo, e non sono pinzillacchere come diceva quel tale, perché Si tratta di un riordino di cui parliamo diffusamente nelle pagine di, dillo tu, Norme e Tributi. Oh, che tu stai leggendo religiosamente. Bravissimo, e così puoi anche vedere che riferiamo del congresso dei commercialisti. Ah, di cui sì, già, sì. Già ti dicevo ieri. Ieri. No, tu fai il superiore. No, ma che superiore? Ma che superiore un commercialista mai? Non ti occupi di fisco, ma guarda che poi il fisco si occupa di te, io te questa... lo voglio dire. Ti quindi, ringrazio, ho toccato il microfono. Non che è un fermo. Augurio, è proprio un dato di fatto. Sì, sì. Ti non voglio dire che parliamo di questo importante disegno di legge collegato alla legge di stabilità che appunto riguarda tutta una revisione delle norme sul lavoro autonomo. Tra l'altro... anche con l'estensione di tutele ad esempio di maternità e paternità, ma leggi Norme e Tributi, insomma adesso non ti posso riassumere il lavoro dei colleghi in così poco tempo. Poi ti voglio dire, ieri è stato confermato che stanno controllando un po' meglio i CAF per la questione del 5 per 1000, ti ricordi, sì, ne parlammo certo. Ai suoi tempi, e quindi ci fa piacere se si evita qualche deviazione. E poi la Ferrari, ce l'hai sempre i due urini? Sì, come no. Oh, allora, nelle pagine di finanza, che tu sempre devi leggere, magari non religiosamente, ma attentamente sì, parliamo anche, tra le altre cose, della quotazione della Ferrari. Volevo dirti, proprio in quelle pagine, tu hai una Volkswagen per caso? No. No, non hai una Volkswagen? No, vabbè. Non ho una Volkswagen. Leggi lo stesso le pagine di finanza, perché ti parlo della Volkswagen proprio adesso? Beh, perché chissà, prima di farti canonici chissà. Auguri per uno certo, splendido fine settimana augurissimi per te, augurissimi per te. Non c'è l'opzione sconfitta per tutti e due? Non lo no, so. Per Inter Juventus, zero punti a testa. Sei veramente di una simpatia rara. Rinnovandoti quindi il mio più auguroni, caloroso auguroni. Augurio per uno auguroni, splendido entrambi. Fine settimana. Ti voglio dire la mia parola di commiato e ciò ti basti fino a lunedì. Traffico! Autostrada Pedemontana, la prima e unica senza caselli. Scoprila su pedemontana.com. Vi presenta Alessandro Milan. Come si fa a farti la siglettina in toscano se tu c'hai neanche una sci? Ciao Milan. Questo è vero, però la siglettina in toscano sarebbe stata simpatica da far ascoltare a Matteo Renzi, che avremo ospite alle 8.25 con Oscar Giannino, ricordatelo, il Presidente del Consiglio alle 8.25 ai nostri microfoni. Allora, politica, due notizie ancora di politica. Il PD pensa a rivoluzionare le primarie. Questa è una notizia che c'è su Repubblica, pagina 13. È una lettera che è stata spedita anche a tutti i segretari delle varie sezioni del PD, ai presidenti di regione. Si pensa a fare che cosa? Lo scrive Annalisa Cuzzocrea, pagina 13 di Repubblica, e cioè modificare per esempio per le elezioni regionali e le primarie voteranno alle primarie solo gli iscritti, mentre per le primarie nazionali si pensa a un albo degli elettori. Per le primarie di coalizione invece una regola che consenta di candidarsi a un solo esponente del PD. Per carità, è tutto una discussione, si vedrà, ma lo racconta Repubblica. Come invece il Libero racconta di un Berlusconi che vuole tornare nel centro della scena. Per questo gira anche un film sui 20 anni di Forza Italia. Durerà 40 minuti, si intitolerà Fiume Azzurro. Questo lo racconta Libero. Berlusconi vuol riconquistare così i moderati con Fiume Azzurro. Leggete l'articolo di Paolo Emilio Russo a pagina 7 di Libero che racconta questo. E poi c'è il dramma Nuovo Centrodestra. Se ne va Quagliariello. Alfano da Repubblica tuona. Noi rimarremo al governo e Quagliariello sbaglia tutto. Il Corriere della Sera intervista l'ex presidente del Senato Schifani, anche lui del Nuovo Centrodestra, che dice nessun esodo, andremo avanti e non spariremo nel PD. Insomma, movimenti di maggioranza. Lasciamo la politica, qualche notizia di cronaca. È stato raggiunto l'obiettivo dei 20 milioni di biglietti venduti per Expo. Questo lo racconta il Corriere della Sera. Oltre 20 milioni di biglietti venduti, l'annuncio dell'amministratore delegato Sala. obiettivo raggiunto, e lo dice con la faccia di chi non ha neanche bisogno di far la faccia da te l'avevo detto, perché lo andava dicendo con la stessa faccia da mesi, racconta Paolo Foschini sul Corriere della Sera. Comunque l'annuncio di Sala, 20 milioni di biglietti venduti. Oggi tra l'altro ci sarà la carta di Milano presentata al segretario dell'ONU Ban Ki-moon, anche se la Caritas accusa è una carta che non dà la voce ai poveri. Per quel che riguarda gli esteri vi segnalo due cose. La prima non riesco a leggerla, ma è interessante l'intervista che il Fatto Quotidiano pubblica al Papa. È un'intervista che Papa Francesco ha fatto a Paris Match, il giornale francese, e che trovate riprodotta a pagina 12 e 13 del Fatto Quotidiano. Il Papa che soprattutto dice: mi sento sempre un prete di strada e vorrei davvero camminare, girare per le strade di Roma, che è una città bellissima. Questo dice il Papa, dice ovviamente anche tante altre cose in questa intervista di due pagine sul Fatto Quotidiano, di Paris Match, riportata dal Fatto Quotidiano. La notizia di cronaca degli esteri che mi ha più colpito, oltre al fatto che Obama ha fatto una retromarcia e dice non lasciamo l'Afghanistan, è quella di una cittadina italiana minorenne, 17enne, che è stata trovata in Turchia al confine con la Siria. Il timore è che stesse per far parte di quei convogli di cosiddetti foreign fighters, o comunque di persone che vanno all'estero per, in Siria, per sposare la causa dello Stato Islamico. Turchia, giovane italiana fermata, voleva raggiungere il califfato. È una 17enne, figlia di un italiano e di un tunisino, che per la verità vive in Francia ma ha passaporto italiano e potrebbe essere espulsa dalla Turchia, immagino per la Francia oppure per l'Italia perché vale il passaporto italiano, non lo so questo. Comunque dall'Emilia alla Jihad, storia di questa sedicenne o diciassettenne tra qualche giorno, scrive Repubblica, in realtà ancora 16 anni, fermata in Turchia. Lo racconta Fabio Tonacci su Repubblica, lo racconta il Corriere, ma è una storia certo molto molto anche inquietante, preoccupante. Oh, che vi devo dire sempre di cronaca? C'è un nuovo caso, in questi casi è sempre controverso, di un bambino di 2 anni che è stato portato in ospedale, lo faccio vedere anche su Periscope, è stato portato in ospedale e l'accusa è i genitori gli davano la dieta vegana. È stato portato in condizioni abbastanza serie in ospedale. Per carità, non è un giudizio, non iniziate a scrivermi che non sono dell'umore giusto, non è un giudizio sulla dieta vegana. Va bene? È una notizia di cronaca. La dieta vegana colpisce ancora, scrive Libero. Grave a Belluno un bimbo di 2 anni. Al Pincolo sono state riscontrate carenze nutrizionali dovute alla mancanza di sostanze essenziali per la crescita. Lo scrive Alessia Pedrielli. Io non do giudizio, ognuno è libero di fare quello che vuole. Semplicemente, probabilmente è stata fatta una dieta vegana in maniera sbagliata, in maniera scorretta. Perché il dato di fatto è che questo bambino stava molto male ed è stato portato in ospedale a Belluno. Non è il primo caso, era successo anche a Firenze. Mi devo fermare qui? Sì, vi ricordo Matteo Renzi ospite alle 8.25 dopo il giornale radio, dunque con me, con Oscar Giannino. La carta costa, oggi la diciamo così perché la carta costa oggi è una pagina della Stampa. In questa pagina c'è scritto che dobbiamo abbassare il volume perché l'Italia è uno dei paesi in cui c'è il maggior volume di decibel e dunque abbassiamo il volume. Parliamo. Ma chi se ne frega? La TAC se n'è andata e non ripassa più. Il treno delle 20 è giunto qui alle 3. I taccuini del Giubileo, l'inchiesta di Mix 24, oggi alle 9 su Radio 24. Sono qui al Giubileo con i parenti miei. Il segnale orario vi è offerto da logisticamente Modul Block, dal più piccolo magazzino semplice o automatico al più complesso centro logistico. Smau ti aspetta a Milano 21-23 ottobre, Fiera Milano City, smau.it. Vi presenta Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. basta, basta, basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Siamo qui, sono le 8 e 18 minuti, caro Oscar Giannino, come va? Buongiorno Alessandro, buongiorno a chiunque ci senta. Va abbastanza bene, mi pare. Abbiamo oggi una puntata di quelle, insomma, notevoli. Abbiamo il Presidente del Consiglio che arriva tra pochi minuti e qui avremo con noi per fargli un po' di domande a nome di tutti, come è giusto, per la legge di stabilità, ma non solo per la legge di stabilità, mi pare. È chiaro, la legge di stabilità è il tema del giorno, approvata ieri, e sarà il centro, il cuore della nostra chiacchierata con Matteo Renzi, ospite ai microfoni di 24 mattino, attenti a noi due, e di Radio 24. E di Radio 24. E di Radio 24. Tra 5 minuti. Infatti, il nostro compito è fare un po' domande come se fossimo a nome di tutti, non solo le domande mie e tue. Chiaro. Anche perché siamo con la legge di stabilità, in cui anno dopo anno sì, c'è il varo, ma poi carte e numeri bisogna aspettare per averli. Quindi, per il momento, commentiamo quello che abbiamo capito sulla base della conferenza stampa che c'è stata ieri, dei 25 tweet del Presidente del Consiglio. I numeri poi arriveranno. Qual è l'elemento centrale, secondo te, di questa legge di stabilità da cui partiremo poi a parlare con Renzi? Beh, è un elemento che, insomma, secondo me è abbastanza inedito, perché ci sono queste tre scelte di fondo: quello di dire abbiamo bisogno di fare espansione, quindi insomma in realtà è una roba alzando il deficit, dicono 5.8 miliardi di tagli di spese, vedremo che non ci sono, perché si interviene semplicemente diminuendo aumenti di entrata prevista, aumenti di spese previste, però inferiormente a quanto non dovevano aumentare, quindi in realtà è come la sanità ci sono 2 miliardi in meno ma dovevano aumentare 3, quindi in realtà aumenta di un miliardo alla fine. Lo stesso vale per le altre poste. Quindi la questione di fondo è: non c'è bisogno di fare più rigore, diamo sia alle imprese sia a autonomi e sotto la fascia della povertà, e terza cosa, poi facciamo dei provvedimenti che fanno discutere trasversalmente. Ce n'è alcuni che dicono no, ma questi sono provvedimenti di destra, come la storia del contante, altri che dicono no, ma questi sono di sinistra, il canone RAI in bolletta. Quindi è un inedito. È un inedito. Beh, di destra, per esempio, sarebbe anche quella da togliere la tassa sulla prima casa, che è stata tolta, no? Come ha fatto Berlusconi, poi è stata rimessa, ma c'è appunto il canone della RAI, ci sono le tasse alle imprese, c'è la pensione flessibilità che non c'è, è stata rinviata, è solo di un anno. Opzione donna, però c'è un nuovo passo favorevole verso gli autonomi sul minimo IVA, quindi come vedi ci sono segnali che vanno in direzione, quelli economici vanno tutti nella direzione di dire freghiamoci del rigore, tentiamo di crescere più. Quelli politici sono trasversali, ce n'è sia per di qua che per di là. E c'è l'accusa ovviamente di chi dice ma ha solo fatto vedere i tweet, sono le solite promesse, ma in realtà non... Questo. Avremo bisogno di leggere i testi, i numeri. Però intanto parliamone col Presidente del Consiglio. Esatto, e lo facciamo tra 4 minuti, non di più. Allora state con noi, Matteo Renzi tra poco ai microfoni di Radio 24 con Oscar Giannino, Alessandro Milan, state con noi. Subito perché... dopo la pubblicità, non stiamo andando pubblicità. Via, questa la dobbiamo... esaurire proprio i tabellari. Esatto, e poi dopo dritti filati fino alla chiusura della trasmissione con Matteo Renzi, tra poco. State ascoltando un programma offerto da ADP, leader mondiale nella gestione del personale. Qui sono le 8:26 minuti, caro Oscar Giannino, caro Alessandro Milan e cari ascoltatori. Siamo pronti e siamo contenti perché su Radio 24 è con noi il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che ringraziamo per aver accettato questo invito. Grazie, buongiorno Presidente. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Entrambi e agli ascoltatori. Allora Presidente, la prima domanda gliela faccio io, Alessandro Milan, sulla legge di stabilità ovviamente. Una legge di stabilità è coperta per metà in deficit e allora ci si chiede dove siano le coperture, è la domanda che soprattutto le opposizioni hanno fatto, soprattutto perché la spending review si è fermata a 5,8 miliardi, dovevano essere 10 se non sbaglio. Una domanda che è la stessa, ormai una domanda, un evergreen diremmo, tutte le volte che facciamo un provvedimento la prima risposta è non ce la faranno mai, non ce la faranno. Quando ce la facciamo il tema è ma dove sono le coperture? Quando escono i dati è ma quelle coperture non ci piacciono. In sintesi, da 2 anni a questa parte l'Italia sta iniziando a tagliare le tasse, con operazioni che possono piacere o meno, gli 80 euro, l'IRAP sul costo del lavoro, quest'anno l'IMU e la TASI, cioè via la tassa dalla prima casa, e poi altri interventi dall'IMU e IRAP agricola fino ai superammortamenti. Questo è il dato di fatto che a mio giudizio interessa le persone. Cioè siamo entrati in una linea di sviluppo per cui le tasse non sono più, come diceva qualcuno, una cosa bellissima. Le tasse, anche detto da uno di sinistra, sono una cosa che in Italia va ridotta, punto. Poi si discute del fatto che delle coperture, e se vuole entriamo nel merito, le tax expenditures, vale a dire i bonus, le deducibilità, le detraibilità fiscali che hanno una parte degli italiani e che sono frutto di un lungo retaggio di singole misure ad hoc, dovrebbero essere prima o poi rimesse in discussione, ma sono 4 miliardi esattamente la cifra mancante alla spending di quest'anno, che se intervenivamo quest'anno voleva dire alzare le tasse per 4 miliardi. Allora abbiamo preferito rinviare una discussione su questo e non alzare le tasse. Quello che un po' mi colpisce è che in un momento in cui l'Italia dovrebbe essere bella tosta, gagliarda, pronta a ripartire, anziché dire a me questa misura piace, non piace, la discussione è sempre non ci sono le coperture. Ah, io sono quasi affezionato perché porta bene questa discussione. Lei dice ci sono, 80 ci euro, sono. Non ci sono le coperture. No, però gli italiani lo vedono, quindi bene così. Sono i benaltristi, quelli che per 20 anni non hanno mai abbassato le tasse. Ora che arriva qualcuno che le tasse le abbassa, però io le avrei abbassate in un altro modo. Effetti, Presidente, è vero che è più facile quando si è avuto prima una destra che diceva e poi faceva il contrario di quello che diceva. Però al di là di questo, a me interessa una prima domanda sulla scelta politica di questa legge di stabilità, perché per tanti versi è un po' un inedito, perché ci sono interventi per le imprese, ci sono, e come, perché è vero che la decontribuzione diminuisce ai nuovi contratti, ma diminuisce a meno di quello che le imprese avevano capito e temuto, da una parte. Dall'altra c'è un cospicuo blocco sempre per le imprese di aumenti degli incentivi agli investimenti, perché insomma vedremo i numeri, ma nelle misure, se si mette il regime dei superammortamenti, la patent box e così via. Ci sono anche per gli autonomi, perché c'è l'intervento che corregge l'errore del governo l'anno scorso del regime dei minimi su autonomi. È il Jobs Act dei lavori autonomi, l'abbiamo chiamato. Dopodiché ci sono interventi sul lavoro, non troppo, ma qualcosa c'è sulle pensioni per l'opzione donna, eccetera, eccetera. Interventi sulla povertà, cioè più sociali. E dopodiché ci sono una serie di misure che sembrano fatte apposta per guardare da una parte alcune a destra e dall'altra alcune a sinistra. Perché canone RAI in bolletta è chiaro che è fatto per piacere alla sinistra. A me non piace, ma c'è lì per quello. Alzare il limite del contante invece sembra una misura opposta. Tant'è che leggiamo che ieri il Consiglio dei Ministri, c'è stato anche un dibattito politico tra i ministri. Allora, questo mix inedito politico, la mia domanda è una scelta solo sua? Sua e di Padoan condivisa? È una cosa inedita che non abbiamo visto? Oppure, in sintesi, è il mix per fare una bella legge di stabilità preelettorale? No, posso dirvi che io, che pure ho capito bene che c'è un addetto ai lavori, fatico a seguirvi su tutte queste riflessioni sociologiche. No, politiche. Faccio un passo indietro, Giannino, sì. Scusi, facciamo un passo indietro molto semplice, poi entriamo nel merito se vuole su tutto. Il punto chiave è che l'Italia dopo anni è ripartita. Poi qualcuno dice ancora troppo piano, io per esempio sono uno di quelli che dice che abbiamo uno spazio di crescita molto più forte di quello che abbiamo fatto fino ad oggi, ma l'Italia è ripartita, mentre fino a qualche anno fa il mondo tirava e l'Italia andava piano, stavolta lo vediamo dai mercati emergenti, da ciò che accade anche nel resto d'Europa a partire dalla Germania, sembra che gli altri stiano un pochino più arrancando, e l'Italia invece finalmente sembra aver ritrovato la fiducia. Tutto sto lavoro qua, lo voglio dire perché resti agli atti, poi avremo magari opinioni diverse, ma io lo evidenzio e lo stresso con grande forza, deriva dalle riforme. Cioè il fatto che l'Italia abbia finalmente imboccato la strada delle riforme, il Jobs Act, la pubblica amministrazione, ovviamente la legge elettorale e la riforma costituzionale, la riorganizzazione che l'Italia sta facendo in modo molto serio del sistema fiscale, queste riforme danno finalmente fiducia al Paese. Allora, in questa cornice cosa facevamo noi nella legge di stabilità? Abbiamo fatto uno sforzo anche intervenendo su una grande novità che sono i costi standard, che è forse la cosa più intrigante di questa legge di stabilità, cioè che si deve smettere di comprare come pubblica amministrazione la stessa cosa a prezzi diversi. Questo è un principio di buona amministrazione. Cioè, una qualsiasi famiglia che compra la stessa cosa in due posti diversi, la volta successiva andrà in un posto in cui costa meno, ragionevolmente, no? Ecco, però, siccome i soldi sono degli italiani, spesso alcuni non neanche li considerano. Quindi i costi standard sono la vera novità liberale, vorrei dire a lei, della nostra legge di stabilità. Dopodiché abbiamo cercato di mettere delle norme, delle misure che diano fiducia. Se hai un piccolo imprenditore, o anche medio, perché no? Anziché comprarti i soldi per andartene a fare una bella, per usare i soldi per andare a farti qualcosa per i fatti tuoi, anziché metterli in tasca, in famiglia, investi sull'azienda. E se investi sull'azienda hai il cosiddetto superammortamento. Quindi è un segnale di fiducia per il piccolo imprenditore. Sei una persona che semplicemente considera la legalità, quindi, un valore. Quindi lei dice tutte le scelte, compreso canone RAI dipende dal fine, non perché ho pensato politicamente. RAI, Giannino, ma lo paghiamo tutti, presidente. Beh, però, tutti in Italia no. No, tutti noi. Tutti voi sì, bravi, bene, bis. Però lei lo sa che costa 113 euro, dal prossimo anno costa 100. Ma lo sa che in bolletta, gliel'ha detto anche l'Ener, che ci saranno problemi, ci saranno impugnative, perché si mette una tariffa invece si fa una tassa. Lei su questo deve aspettare di leggere la norma, certo. Perché può darsi che abbia ragione lei e può darsi che abbiamo ragione perché noi. Come la farete, presidente? No, già fatta, è una norma che non, a mio giudizio è diciamo al riparo da impugnative. Le dico questo, poi naturalmente vedremo, il nuovo filosofo lo scopriremo solo vivendo. Ci mancherebbe però, altro. Il punto è che non è un problema di naturalmente io rispetto le opinioni degli altri, vorrei essere chiaro, per carità di Dio, però se lei paga il canone RAI, l'anno scorso ha pagato 113, quest'anno paga 100, il prossimo anno paga 95, secondo me è l'applicazione di un principio che per me è liberale, è giusto, sì. E sacrosanto, pagare meno, pagare tutti. Però presidente, lei alla Leopolda sulla RAI ci aveva detto sarà il momento di fare le riforme, guarderemo agli altri paesi. Ci sono paesi che hanno il canone ma hanno levato gli spot, ci sono paesi che hanno tenuto la missione di servizio pubblico e a quel punto fanno la scelta opposta. E posso fare una domanda? Mettere solo il canone in bolletta e sulla RAI fare l'intervento sul direttore generale, chi alla Leopolda c'era ascoltato non resta un po' deluso? Beh, insomma, dia tempo al direttore generale di fare le sue strategie. Non mi pare che le cose che ha detto Campo Dall'Orto siano banali, anzi tutt'altro. Le dico una cosa banalissima, piccolissima, perché poi la RAI secondo me sarà un grande soggetto dell'investimento culturale in Italia. A parentesi, quest'anno si investe di più sulla cultura, il paese torna a mettere il segno più anche sui soldi per la cultura, a assumere giovani professionisti storici dell'arte, a investire su alcuni centri d'eccellenza. Chiusa parentesi, faccio un esempio banale di una cosa che per esempio Campo Dall'Orto ha già annunciato, quindi la posso rilanciare: l'idea che nei programmi per bambini non ci sia più la pubblicità. Anche questo è una cosa che ha un senso. Io per la RAI non parlo da politico, segretario di partito interessato ad avere uno spazio o un altro, parlo da genitore. Le dico, sono felice che ci sia una norma del genere e so che voi, attenti a voi due, attenti a noi due, siete una bella coppia. Ma che guarda, parla spesso di economia. Questo l'avevo detto che ero felice di questo, però presidente, vorrei scavare dentro diciamo la parte della scorza di uomini duri, sì, no. I numeri. Sì, mi fate dire una cosa bella di questa stabilità, sì. La legge sul dopo di noi. Il dopo di noi, voi sapete, noi sappiamo, e come dire, chi ha delle vicende anche personali e familiari lo sa a maggior ragione, che ci sono dei ragazzi e delle ragazze, delle donne e degli uomini, delle italiane e degli italiani che hanno delle forme di disabilità per le quali ovviamente hanno una serie di difficoltà maggiori nel cammino della vita. Ma una di queste che più preoccupa i genitori, le famiglie, è per chi ha un bambino, un figlio o un ragazzo con disabilità, in alcuni casi la preoccupazione. La preoccupazione c'è sempre, del dopo. Faccio l'esempio di chi è affetto da sindrome di Down. Quando io sono nato, nel 75, un bambino che aveva la sindrome di Down aveva un'aspettativa di vita inferiore ai 30 anni. Sì. Oggi, fortunatamente, viva Dio, che bello, hanno un'aspettativa di media ancora non nella media nazionale, ma comunque superiore ai 65 anni. Questo che cosa vuol dire? Che spesso sopravvivono ai propri genitori. E questo tema è un tema al quale la politica non ha mai pensato. La legge sul dopo di noi vuole andare esattamente in questa direzione. Non sono tanti soldi, perché sono tra 90 e 100 milioni di euro, ma è un principio di buon senso. Però lei dice, è come ci gli sono interventi sulle case popolari per fare l'efficientamento energetico. A proposito della casa però, Presidente, la scelta politica è quella di aver tolto le tasse sulla prima casa. Sa che Bruxelles storce un po' il naso e dice era meglio detassare il lavoro. Che dirà Bruxelles? Ma Bruxelles non è il nostro maestro che fa l'esame. Bruxelles non ha nessun titolo per intervenire nel merito delle misure. Può dare suggerimenti, consigli. La subalternità psicologica italiana è stata in questi anni particolarmente sviluppata nei confronti degli eurocrati. In altri termini, lo dice Bruxelles, magari parla il portavoce di terzo rango del vice commissario aggiunto della Commissione e dice una cosa: il sistema dei media e anche il sistema della politica rilancia con forza Bruxelles. Storce il naso, Bruxelles dice no. Oh, ma Bruxelles è il luogo nel quale ha sede un'istituzione a cui noi diamo ogni anno 20 miliardi di euro come Italia e da cui ne prendiamo indietro 11. Cioè Bruxelles non è il nostro maestro. Noi a Bruxelles diamo ogni anno 9 miliardi netti di differenza tra ciò che diamo e ciò che prendiamo, e ci deve spiegare. Certo, ci deve aiutare, è una cosa bella, l'Europa è un grande valore, ma non è che ci deve dire qual è la tassa più giusta da tagliare. Bruxelles potrebbe anche bocciarla la legge di stabilità. Bruxelles, fermo restando che se Bruxelles boccia la legge di stabilità tu gliela restituisci tale quale e sei uno pari e non cambia niente. Cioè, questo perché sia chiaro come funziona la legge. Se Bruxelles dice no, tu gli dici beh, peccato, sì, ma in questo caso non esiste, perché uno, siamo gli unici, no, gli unici no, siamo su 28 paesi tra i pochissimi che rispettano le regole. Questa non ve l'aspettavate dall'Italia, sì. Cioè noi siamo tra i pochissimi che stanno dentro le regole europee. Siamo soltanto noi, classe politica italiana, che tutte le volte con fare tafazziano guardiamo all'Europa raccontando che in Italia l'Europa boccerà. Oh, ma noi siamo gli unici che stanno dentro non soltanto il 3%, ma il fiscal compact con le clausole. Vabbè, della flessibilità. Presidente, da su, lo sa meglio di me. Noi diciamo che siamo nelle regole perché abbiamo abolito l'obiettivo a medio termine di azzeramento del deficit strutturale. Nel senso che ogni volta diamo interpretazioni, e infatti la trattativa che avete ancora adesso sullo 02 a Bruxelles, su quanto facciamo. Però mi perdoni, questo è un punto di però, merito. Mi faccio spiegare agli ascoltatori, poi la faccio spiegare a lei. Diciamo, su come farlo il fiscal compact con la crisi, è ovvio che ci siamo inventati tutti quanti con l'Europa d'accordo delle letture del fiscal compact, e diciamo le stiamo stressando sempre di più. Cioè, andiamo sull'idea, rispetto, però c'è un punto diverso, io le faccio, altrimenti lei, non potrebbe essere tornato a fare deficit o 2,2 o 2,4. Gianino, scusi, quant'è la Francia? Voi spesso citate la Spagna come un modello. Sì, sono sopra di noi come deficit. No, non è che sono sopra di noi, sono sopra il 3%, esatto, anche gli obiettivi del fiscal compact. Esatto. L'Inghilterra, il Regno Unito, lei è uno di quelli che ha magnificato, capisco il risultato di Cameron nel maggio del 2015, ma il Regno Unito quest'anno, lo dica ai suoi ascoltatori, ha fatto il 5 di deficit. Sì, non c'è dubbio. Cioè la riduzione delle tasse di 20 miliardi di euro, che ha fatto l'equivalente di 20 miliardi di euro, che ha fatto David quest'anno, è stata finanziata in larghissima parte in deficit. Allora, a me va bene tutto, ma non continuiamo a parlare male dell'Italia, perché l'Italia sta facendo... Non mi riferisco mica a voi, voglio ben sperare che non parliate bene e male dell'Italia, ma l'atteggiamento tipico di dire l'Europa ci dice, rispondo quindi ad Alessandro, primo punto, la questione delle tasse sulla casa è una scelta che può fare solo il Parlamento italiano. Perché la facciamo? La facciamo perché agli italiani, l'80% proprietari di casa, stiamo dicendo ragazzi è arrivato il momento della fiducia, fate quello che dovete fare, ritirate fuori, fate girare ciò che serve, vale a dire fate girare il denaro, perché l'Italia può ripartire se rilancia i consumi. E non chi, si aspetta a chi una dice, magnifica crescita dell'export. E a chi dice che è un provvedimento berlusconiano, lei che replica? che Berlusconi, come tutti, anche gli orologi rotti, una volta, due volte al giorno diceva le cose giuste, punto. Quindi voglio dire, non è che, ma questo però è anche un atteggiamento di libertà mentale, no, che dovremmo avere tutti. Se Berlusconi dice una cosa che è giusta, non è che dice ah ma l'ha detto Berlusconi, è che, cioè voglio dire, può accadere. Berlusconi avrà detto in vita sua tante, come è noto, ne ha dette tante, talune anche contraddittorie, e alcune cose sono giuste, altre sbagliate. Questa era giusta. Ma non è che io non abbasso le tasse perché quella tassa la voleva abbassare, no, Berlusconi. No, questo no, però ho un'altra curiosità sulla questione del contante. Presidente, ha sentito tante persone... Posso finire però su, sì, questo della, sulla, sì, casa, sì, che è fondamentale, sì, così lo diciamo ai nostri ai vostri ascoltatori. Occhio, perché oggi noi siamo in una fase in cui l'Italia ha bisogno di messaggi di fiducia, di serenità, di tranquillità. Questo è l'elemento chiave per il quale interveniamo sulla casa. Abbiamo perso 500.000 di persone nel solo settore dell'edilizia e delle costruzioni. Abbiamo bloccato un sistema. L'aumento di risparmio nelle banche italiane è passato da 3.500 miliardi a 3.900 nei due anni della crisi recente. C'è bisogno di dire, cari italiani, l'Italia ha mille problemi, mille difficoltà, per carità di Dio, ma una forza straordinaria, un risparmio privato che è il più forte al mondo, sì, una consistenza della propria manifattura che cerchiamo di rafforzare anche con misure come quelle dei superammortamenti. Quindi si riparte da qui. Smettiamola di dar sempre ascolto a quelli che dicono ah non ce la faremo. Però risponda, ma non alle nostre, ma alle tante critiche che le sono piovute sulla questione di aumentare il limite dell'uso del contante a 3.000 euro. Susanna Camusso parla di incentivo all'evasione, al sommerso, lei che risponde? Strano che la Camusso abbia qualche critica, dalla Camusso non me l'aspettavo una critica, però intanto battute a parte, la misura del contante è una delle più contestate, però le dico, a me fa quasi piacere, perché se a fronte di una manovra che interviene, che riduce le tasse sulla casa, riduce IMU e IRAP per gli agricoltori, queste sono le critiche, sul Jobs Act dei lavori autonomi, fa l'intervento dei superammortamenti, cioè se a fronte di tutto conferma i bonus dell'edilizia, fa la prima misura della povertà, fa il dopo di noi di cui parlavamo prima, sì, e potrei continuare raccontando che lascia spazio ai comuni fuori dal patto di stabilità. Se a fronte di tutto questo l'unica critica è sul contante, beh allora parliamone, ma come dire, sono pronto a discutere, sì, però tappo una bottiglia di quello, sì, di quello, sì, buono, perché è segno che probabilmente questa manovra, rispondo nel merito, sì. Noi abbiamo un livello di contante, di limiti al contante che è il più basso d'Europa. Soltanto il Portogallo è a 1.000 euro come noi e la Grecia addirittura è a 1.500. La Francia si è aggiunta, Presidente, se evitava quell'errorino sulla Francia, che dipende da chi le ha scritto la roba, evitava. Ma ha aggiunto dal 1° settembre. Esatto, sì. Ho capito, fino ad oggi lei parli con qualsiasi... No, ma io sono favorevolissimo al contante. Il punto qual è? Se uno dice a me non piace, io non credo che sia una roba su cui avere una posizione ideologica, le dico soltanto questo proprio con molta tranquillità, se mi dicono che questa misura è una misura che semplifica, è liberale, io dico di sì, se mi dicono che questa è una misura che sostiene l'evasione, dico che i dati dimostrano che non è così, perché non è stato il contante a ridurre l'evasione, cos'è stato che ha ridotto l'evasione? L'incrocio informatico dei dati che stiamo cercando di perseguire ogni giorno di più. Allora, noi siamo il governo che ha fatto l'accordo con la Svizzera per riportare i denari, la voluntary disclosure. Abbiamo fatto l'accordo col Vaticano e siamo stati i primi a fare un accordo col Vaticano per riportare indietro i denari, con Liechtenstein. Non per cacciare Marino. Dai, questa non è la male. Di Roma è vero, anticipato. Una battuta ogni tanto. Ho capito, ma mentre sono nella foga esplicativa della legge di stabilità, veniva ogni tanto, sa com'è. E no, è che gli rode perché quest'anno diciamo la sua squadra è leggermente dietro la mia in classifica. Sono torinista. Pensavo fosse stato torinista. In ogni caso la battuta era carina. Avendomi interrotto sul più bello, voglio dire però che il recupero di denaro che viene dall'evasione è stato fatto poi anche a livello interno, la fatturazione elettronica, la dichiarazione dei redditi precompilata, lo split payment, le misure che abbiamo iniziato a mettere in campo sono misure che hanno dato quest'anno più gettito. Però Presidente, di Roma l'abbiamo introdotta come battuta, ma su Roma ci sono tante curiosità. Ma davvero Marino non poteva rimanere secondo lei? Aspetti però, quindi sulla stabilità non mi fate di più niente. Basta. Io voglio solo una cosa, per quello spirito che ha detto prima, lei se la sente di dire a tutti i cittadini italiani che con l'abolizione IMU, TASI, prima casa, non c'è la possibilità ai comuni di compensarla con un aumento di altre imposte, perché sennò succede quello che ha detto lei, continuano a risparmiare invece che a consumare. Non ci sarà, possiamo dirlo? Assolutamente sì. Okay. Non ci saranno aumenti di altre imposte, questo è il punto fondamentale. Io voglio dare un messaggio agli italiani. Insomma, qui stiamo, lei pensi all'ultima settimana, non ci credeva nessuno, però in una settimana abbiamo fatto la riforma, abbiamo votato al Senato, no, sì, la ma riforma. Ma a me basta che lei dica così, poi vedremo le carte, detto, troveremo la conferma. No, perché detto, Presidente, abbiamo talmente tante domande e argomenti che poi... Roma. Questa interrogazione, fatemi fare una domanda a piacere almeno. Va bene, alla fine l'ultima sarà sulla Fiorentina. Comunque non volevo dirvi che in questa settimana abbiamo fatto le riforme costituzionali, non ve lo dirò. Per carità. Ce ne siamo accorti. Roma... Marino non poteva davvero restare più? Io non metto il naso nelle vicende romane, lì ci sono... Dai, Presidente. No, è così, ma io faccio il Presidente del Consiglio, cioè il mio obiettivo è quello di cercare... Non ma lei sei mesi fa ha detto cercare Marino doveva andare. Cercare di mettere a posto il Paese. Le realtà dei comuni, delle amministrazioni locali, dipendono da dinamiche locali. Io ho fatto il sindaco, e facendo il sindaco so che le cose su cui ti chiedono conto non sono le discussioni politologiche nazionali, ma sono le buche. Le strade. Quindi lei si sente di dire che la squadra dei commissari di Roma se ne occuperà il ministro dell'interno, non lei, perché lei allora ha altro da fare. Vediamo di essere chiari, la squadra del commissario, il commissario addirittura lo sceglie il prefetto, neanche sì, esatto, il ministro interno, quindi il prefetto dovrà scegliere il commissario, come ha detto Gabriele, poi naturalmente trattandosi di Roma e non di un comune di 200 abitanti, come dire, la consulterà, diciamo. No, ovviamente cercherà di avere un profilo vede, che sia un profilo che quindi... Bene, poi c'è un'altra cosa invece che non c'entra niente con quello che lei ha appena detto, e cioè che l'occasione del giubileo, sì, che è un giubileo anche particolare, diciamola tutta, il giubileo non è un giubileo come quello del 2000 che si era pensato, che già si sapeva che c'era per le regole della Chiesa, per le dinamiche della Chiesa, ma è un giubileo che è stato accolto e atteso con grandi iniziative, con opere infrastrutturali importanti e quindi con un lavoro di preparazione lungo anni. Questo è stato annunciato dal Papa a sorpresa, è stato anche presentato dalla Chiesa come un giubileo diverso dal solito, molto legato alle varie periferie del mondo, così ha detto Papa Francesco, e che riguarda anche le periferie della città che l'ospita, della città eterna. In questo scenario cosa dobbiamo fare? Noi abbiamo la possibilità, e nelle prossime ore, nei prossimi giorni ci lavoriamo, di utilizzare un provvedimento normativo legato al giubileo per sistemare magari un po' meglio gli autobus, per cercare di tenere più in ordine alcune realtà della città, sì, per cercare di intervenire con lo strumento sul giubileo, quindi questo riguarda il governo, perché il provvedimento viene fatto in sede, se è un decreto legge viene fatto al Consiglio dei Ministri e poi portato al Parlamento. E allora in questo senso la mia idea è, visto, diciamo così, la situazione di complessità che si è creata a Roma, forse vale la pena di fare una piccola squadrettina, sì, che da qui al prossimo anno, fuori dai colori politici, ci porterà fuori da questa situazione. Non è una roba del PD romano o di Forza Italia romana o degli altri, una roba che su 4-5 temi utilizzi la scadenza del giubileo in modo molto molto molto serio. Bene, responsabile, sì, consapevolmente. Però Renzi, ma penso che su questo tutti gli italiani vorrebbero. Certo, lei ha fatto il sindaco e sa che Marino, la goccia che ha fatto cadere tutta, è la questione degli scontrini. Il Fatto Quotidiano da giorni dice che anche lei, da presidente della provincia e sindaco, ha degli scontri, delle spese non rendicontate, perché lei dice tutto trasparente ma non trova gli scontri. Lei può assicurare gli italiani che tutte le sue spese di scontrini siano state fatte? È la quarta volta che lo dico, lo ripeto, e quindi non ho niente da aggiungere per il fatto che è tutto tranquillamente non soltanto rendicontato, ma nel nostro caso l'abbiamo siamo stati i primi a pubblicare online. Ma le perché spese. Il Fatto dice che non le trova? Ai consiglieri dell'opposizione dicono che non le trova. Di Travaglio, lo può chiedere a lui. Io guardi, sono bravi a cercare le cose. Dicono che al comune viene negato l'accesso pubblico. Questo è quello che dicono. Guardi, tutto ciò che noi abbiamo fatto sulla trasparenza e sulla pubblicazione dei dati è evidente. Io so perfettamente che questo tema è un tema sul quale, quando si raggiungono, come dire, quando si danno delle risposte chiare alle persone, su questo poi naturalmente ognuno ci può starci le giornate. È talmente vero che io non avevo la carta di credito del comune. Quello che trovo abbastanza imbarazzante, glielo dico, è che a fronte di una vicenda che è una vicenda totalmente inventata, perché le stesse persone che ne hanno parlato hanno smentito, da una settimana io devo rispondere su queste questioni anziché sulla legge di stabilità, e ognuno risponde di quello che vuole. Ripeto, come ho ripetuto in questa ultima settimana per la quarta volta, tutti quelli che me lo dicono, ci sono i fatti, e i fatti sono testardi, come diceva quello, perché uno può avere le proprie opinioni, uno può dire guarda, a me Renzi mi sta un po' antipatico, ed è legittimo, ma non può, come dire, andare contro la realtà. Le chiediamo allora domande vale per flash. Me, vale per le indagini su mio padre, vale per tutto quello che viene ridetto costantemente. In questi casi si fa un bel sorrisone, si fa un bel respiro e si va avanti. Presidente, quello che voglio dire a voi è, perdonatemi, andate a vedere e fatelo sul serio, quello che serve oggi alle amministrazioni locali, cioè la massima trasparenza dei denari pubblici. E non è un caso che da quando siamo al governo c'è un sito dedicato su dove si mettono i denari, soldi pubblici. Presidente, abbiamo 2 minuti e 20 secondi, poi ci sfumano. Io ne ho una veloce. Sala, poi, amministratore delegato dell'Expo, le piacerebbe come candidato sindaco a Milano? Ma perché, avendo 2 minuti e 20 secondi, non fate anche qualche domanda nuova? Sono sempre le solite. Il sindaco di Milano lo scelgono i milanesi. Non è difficile questa, è abbastanza semplice. Se volete, però lo candidano i partiti, come lei sa. E i partiti hanno delle proprie regole. Oddio, non tutti, questo è vero. Alcuni partiti non hanno regole, sono... Oppure alcuni partiti hanno scelto le primarie e poi ci hanno ripensato, per esempio. Quali? Insomma, alcuni pezzi del suo partito, c'è un dibattito aperto, lo leggo. Esatto, il Partito Democratico c'ha questo difetto, che si chiama Partito Democratico, difetto tra virgolette ironico, si discute tra di noi, ma c'è chi preferisce un modello diverso, dove dal blog si dà la linea e si spiega questa è la linea, oppure si fa fare le votazioni parlamentari e poi si cade l'idea. Io no, non ce l'ho con nessuno, sto dicendo che il blog, mi sembra, scusi, che lei stelle. Vuole parlare con il governo, con il Presidente del Consiglio di Milano, parliamo dell'Expo, non ci credeva nessuno, andavano lì e dicevano sarà un disastro. Questo è un fatto, oggi, e dopo che ci sarà, Alessandro, dopo ci sarà, stato di fatto. Ammettiamolo, invece la domanda questo è vero, tipica degli addetti ai lavori, chi farà il sindaco a Milano, è una domanda che è molto sbadiglio. Che succederà dopo l'Expo, Presidente? Cioè, finita l'Expo, che succederà di quella zona? Per quella lei? Zona è in mano al Comune e alla Regione. Ma lei cosa sia auspica? Il sindaco che il Presidente della Regione ci hanno chiesto se vogliamo intervenire, se vogliamo metterci dei soldi e starci come governo. E noi, in spirito di collaborazione, di leale collaborazione con Babbo Maroni e con Giuliano Pisapia, che come sapete hanno colori diversi, abbiamo detto se vi serve che il governo faccia un progetto su questo, ci siamo. Perfetto. E già il ministro Martina lo ha iniziato a seguire questo percorso. Io faccio un'ultima domanda flash, lo faccio al Presidente del Consiglio ma anche al segretario del PD. Secondo lei, viva l'autonomia dei partiti, del Parlamento, ma quel voto in Parlamento che si pigliano i rimborsi pubblici senza controlli, al Presidente del Consiglio, come lo chiedo, non è meglio, che effetto vuole che faccia la gente? Un effetto negativo? Che ne pensi? I rimborsi pubblici ai partiti sono stati aboliti con una legge del governo Letta, e che è stato inserito proprio con un graduale decalage, con una graduale diminuzione. Quella legge si può discutere se fosse buona o no, è però un dato di fatto, di cui io volentieri do atto all'amministrazione. Però che nelle rate annuali prendersele senza controlli. Dopodiché è stato messo una voce di bilancio che era di 9 milioni il primo anno, di 27 il secondo, di 45 il terzo, che dava la possibilità ai singoli cittadini di scegliere in modo libero, con il 2 per mille, la possibilità di finanziare un partito. Sì, ma quel provvedimento di questo ieri non c'è piaciuto. Scusi, non c'è piaciuto, se mi fate finire vi do la notizia. Proprio in legge di stabilità abbiamo ridotto lo stanziamento di 10, 20 e 20 milioni proprio per questo motivo, per ridurre il plafond destinato alle scelte, Detto questo, quella legge lì è una legge che richiama, da quello che capisco, l'attuazione della legge Letta, della legge Letta sul finanziamento ai partiti. A me pare una cosa abbastanza stravagante, lo dico con molta sincerità, che sul tema del finanziamento pubblico ai partiti non si prenda atto di una realtà, e cioè che se noi avessimo mantenuto la legge sul finanziamento pubblico d'accordo, ai partiti, sì, con gli 11 peggio. Milioni di voti ci dobbiamo fermare, PD, Presidente, e invece quanto abbiamo? Ne abbiamo 5. La Fiorentina è da scudetto, sì o no? La Fiorentina è da scudetto, sì o no? parlo solo di legge di stabilità. Scaramantico. Quindi è da scudetto. Ha detto di sì. Grazie, sì, Presidente. Grazie, a domani.